Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Oggi ci addentriamo nelle innovazioni che hanno fatto fare un salto di qualità al settore sicurezza, non solo fisica e del territorio, ma anche virtuale dei dati. Comun denominatore è prevenire, sempre più rapidi e precisi. Un secondo, un frame, valgono vite e perdite di denaro. Il tempo è la soluzione anticrisi. CAE è la principale impresa italiana nel settore del monitoraggio dei fenomeni naturali in tempo reale, cioè alluvioni, terremoti, cambiamenti climatici, frane, dissesti idrogeologici, incendi. Non solo incubi, ma fatti di attualità sempre più frequenti. Una piccola startup di fine anni 70 che è cresciuta fino ad avere un organico di oltre 100 persone, soprattutto giovani e per il 20% donne. È un fatturato che nel 2012 ha sfiorato i 15 milioni di euro. L'idea imprenditoriale è nata nel 1977, infatti, e ha mosso quattro ingegneri specializzati in telecomunicazioni, all'epoca ricercatori presso la Fondazione Marconi, a dedicarsi a un settore allora quasi inesplorato. Oggi, nella sola penisola, CAE ha realizzato più di 85 reti di monitoraggio. Non solo sentinella del paesaggio, ma primatista nella tempestività per la protezione civile e le istituzioni, ma anche per le aziende, con un'idea innovativa, il multi-hazard system, per un monitoraggio multirischio. Lo spiega Guido Bernardi, che si occupa di marketing per CAE, portavoce e rappresentante della seconda generazione. L'idea che sviluppa l'azienda CAE è quella di fornire sistemi di monitoraggio che permettono in primis alle amministrazioni pubbliche, ma comunque a tutti coloro che operano anche per scopi di protezione civile, dati in tempo reale relativi alle evoluzioni dei fenomeni naturali sul territorio. Questi sistemi sono composti da sensori che rilevano diverse grandezze relative ai fenomeni naturali, quindi grandezze fisiche, temperatura, precipitazioni, livello dei fiumi, umidità del suolo. Dopodiché questi sensori sono collegati a delle stazioni di raccolta dati e trasmissione dei dati, poi il sistema ha una nervatura che è un sistema di trasmissione di dati che il più delle volte funziona grazie a tecnologia radio UHF e un centro di raccolta dati. Tutta questa rete, diciamo, di comunicazione ha un nome, qual è? Multi-hazard system. Perché proprio questo nome? Perché ricorda agli utenti che questi sistemi, mentre tradizionalmente si utilizzavano unicamente per monitorare il dissesto idrogeologico, oggi possono essere utilizzati anche per altri rischi naturali, come per esempio quello degli incendi boschivi oppure anche quello delle frane. Avere un sistema di monitoraggio in tempo reale diffuso sul territorio e capillare è una sorta di assicurazione, perché permette agli utenti di questi sistemi, che poi sono i nostri clienti, come sono le ARPA regionali, le agenzie per la prevenzione ambientale, oppure i servizi di protezione civile, permette a questi enti e a questi servizi di avere dati in tempo reale. Con i dati in tempo reale è possibile fare previsioni accurate e quindi prendere tutte quelle decisioni giuste, da un lato perché un evento venga mitigato o dall'altro per allertare la popolazione in tempo. La cosa che interessa è anche la lunga storia, la solidità proprio di queste analisi, perché non è che siete arrivati soltanto l'altro giorno, avete maturato un po' di esperienza o no? Certo, nel 1977 sono stati quattro ingegneri, allora giovani ingegneri ricercatori della Fondazione Marconi di Bologna, che si sono messi in proprio. Mettendosi in proprio hanno dato un'impronta all'azienda molto innovativa, che era quella di applicare l'elettronica e le telecomunicazioni a un settore che fino a quel momento era meccanico, che era quello del monitoraggio appunto delle condizioni dei fiumi, del livello delle acque e dei fenomeni meteorologici. Certo, una bella responsabilità nei confronti dell'ambiente, responsabilità che nasconde anche dei valori che volete portare avanti e anche un sostegno forte, per esempio, del FAI, anche in Italia, no? Esattamente, la CAE è golden partner del FAI ormai da diversi anni ed è una nostra volontà quella di rimanere a supporto di questa associazione, proprio perché fa tante attività a difesa del patrimonio culturale e paesaggistico nel nostro paese, e per noi questa è un'associazione di valori molto importante. Bullserver è un'azienda italiana specializzata nella protezione dei dati digitali e nella sicurezza informatica, che sta sfidando in un settore ancora oggi fortemente ancorato al mercato americano colossi che sembravano inarrivabili. Una bella storia di Made in Italy che si fa strada senza dover emigrare nel cuore della Silicon Valley. In un momento di crisi e difficoltà come quello attuale, Bullserver risponde con importanti investimenti esteri, dando via a un processo di espansione internazionale con l'apertura di 2 nuove sedi a Londra e a Parigi. Il racconto del presidente nonché mente informatica Valerio Pastore, 36 anni. La passione ce l'ho da quando ero ragazzo. I miei studi mi hanno sempre portato verso la sicurezza dell'informazione, quindi tutto quello che riguardava la protezione dei dati era per me una cosa interessante, quindi gli studi mi portavano verso la cifratura, quindi da lì mi è nata la passione di capire come si potevano offuscare le informazioni. Poi ho cominciato a lavorare per questo tipo di approccio, quindi sul dato. Poi da lì è cominciata la passione vera e propria, che è poi diventato un lavoro, ecco. Cosa significa sicurezza? Soldi? Dipende, non è detto che significa soldi, significa proteggere la propria identità, secondo il mio punto di vista. Sì, anche soldi, ovviamente, anche soldi per le aziende che devono proteggere le proprie proprietà intellettuali, ecco, quello in quel caso ovviamente può diventare, la sicurezza in quel caso anche può trasformarsi in soldi. Ecco, più forti dei brevetti, più forti delle protezioni internazionali è creare una propria rete, diciamo un proprio scudo. Sì. La vostra idea quando è nata? L'idea è nata nel 2001, l'idea di base del software dell'encryption, la cifratura del dato, quindi la sicurezza dell'informazione, e poi dal 2005-2006 ho cominciato a pensare che poteva essere poi ovviamente poteva diventare pian pianino un'azienda, e quindi ho fatto questo software che oggi distribuisco in tutto il mondo e che permette di proteggere appunto tutte quelle informazioni sensibili che le aziende hanno bisogno di condividere in modo sicuro. Come è stato realizzato, insieme a chi è che l'ha pensato, c'è un algoritmo, c'è qualcosa, e soprattutto anche chi vi ha aiutato a svilupparlo? Certo. Allora, prima ovviamente questo software è stato realizzato da me per quanto riguarda la prima fase, la fase iniziale. Poi il software, per poter crescere meglio, ha avuto bisogno ovviamente di più persone di sviluppo. In quel caso c'erano due necessità: necessità economiche ovviamente, necessità di risorse umane. All'inizio l'abbiamo fatto da soli, cioè nel senso i nostri capitali privati ci hanno permesso di cominciare, poi pian pianino abbiamo visto che la cosa funzionava e hanno cominciato ovviamente poi ad interessarsi anche investitori esterni. Ecco, il vostro business, il modello di business riguarda le aziende, riguarda i privati? Allora, il nostro software è dedicato sicuramente rivolto alle aziende che hanno bisogno di proteggere i propri dati. Ecco, la cosa importante è che non solo serve, diciamo, alle aziende, sì, ma è anche importante per ciascuno di noi il fatto di proteggere i propri dati sensibili, email, sì, testi. Sì. Questo perché? Questo perché purtroppo oggi il mondo va sempre verso la pubblicazione delle proprie informazioni, quindi vediamo Facebook, vediamo Twitter, vediamo che tutti mettono le proprie informazioni private alla disposizione di chiunque si possa collegare a un computer. Questo ovviamente ha reso la cosa, inizialmente era abbastanza bella da fare, però poi è diventato un problema con andare avanti nel tempo. Questo lo vediamo poi con i casi che succedono online di problematiche di persone a cui vengono derubate le identità. Ecco, utente, ma anche voi siete anche venditori, sì, venditori premiati dal Cool Vendor. Che cos'è, sì, questo Cool Vendor? Beh, Cool Vendor è un riconoscimento di questa società di analisti del mercato IT che si chiama Gartner, che ci ha dato questo premio come Cool Vendor, che significa classificati tra le prime 5 aziende al mondo come azienda promettente. La cosa bella era che il fatto che noi fossimo gli unici italiani insieme a altre quattro aziende totalmente americane, quindi che venivano dalla Silicon Valley. Quindi le quattro Silicon Valley e gli unici europei eravamo noi. Quindi questa è una grande cosa, è un grande riconoscimento. E avete anche un buon potenziale, Bully Award, cioè il premio per il potenziale è stato dato a voi rispetto appunto a tanti competitors, esattamente, no? Esattamente, sì, abbiamo vinto diverse volte per diversi anni gli SCE Magazine Awards, dove venivano appunto premiate le migliori aziende al mondo che avessero prodotti di sicurezza di un certo tipo. Anche lì è stato tra virgolette divertente, perché noi eravamo insieme in gara a colossi come Symantec, McAfee, Oracle, e quindi diciamo anche lì è stata una soddisfazione molto interessante. Ed ora inventate il vostro scudo anticrisi. Se volete ascoltare le precedenti storie o scriverci le vostre voci di piccole imprese, su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa e il blog su www.radio24.it. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza. Un saluto da Anna Marino. Avete ascoltato Voci di Piccola Impresa, idee anticrisi. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Un saluto e a sabato prossimo.